umelela ndikubona wamelela imderere umelela ndikubona wamelela imderere andina sati katavana andina munya mapalala andina nwanyana kamsajio pani nyanya imderere mine vani zonda imaka mine vani nyanya imderere mine vani zonda imaka Aiti magatam derere, aiti magatam derere. Zinga etela varanda mama, a varanda kamadeu. Amo bedu igarada mine, a shimansa irapoi. Mata bicho itinsenge, a limonsu mabadia lawa, a jantar idropau. Nima gumba ya shikudu, nima gumba ya shikudu. Katavana, Andrina Mbuya Mapalala, Andrina Nwanyana Kamsajio. Vani nyanya imderere, mine vani zonda imakazi. Mine vani nyanya imderere, mine vani zonda imakazi. Aiti magata mderere, aiti magata mderere. Umelela ndikubona, wa umelela imderere. Umelela ndikubona. Bom, ela é um dererê.